Allora, vabbè, iniziamo questa, diciamo, chiacchierata, discussione. Non siamo tantissimi, però speriamo questo ci possa permettere anche uno scambio migliore. Molto velocemente, intanto, vabbè, benvenuti tutti, insomma, questo è il primo appuntamento di questi 2 giorni sulla Palestina, che inizia oggi qui all'università e continuerà domani nel pomeriggio a Centocelle con un pomeriggio di graffiti nel quartiere, e poi domani sera con il cena palestinese, concerto. Degli artisti, insomma, che dopo vi facciamo conoscere, che sono venuti da Londra, e quindi un concerto benefit per finanziare diversi progetti. Molto velocemente provo a fare un'introduzione, nel senso più che altro presentare alcuni pezzetti che sono qua oggi. L'importanza di parlare oggi di Palestina per noi va ben oltre quello che vediamo nei telegiornali in questi giorni, va ben oltre le discussioni che ritroviamo appunto sui canali internazionali di un riconoscimento o meno di uno Stato palestinese, che per quanto sia una questione non secondaria, anche difficile da affrontare, però è una discussione molto complicata e non, noi in particolare, insomma, per le discussioni che ci facciamo in Italia, crediamo che questo sia pure poi un ambito pure più riservato ai compagni palestinesi. Quindi non vogliamo entrare in questa discussione perché non ne usciremmo più, ci sono 1.000 punti di vista e non c'è una soluzione, insomma. Quindi quello che sicuramente possiamo dire è che a prescindere da quello che succeda nelle sedi delle Nazioni Unite, se la Palestina verrà riconosciuta o meno con uno Stato-nazione e di che tipo, a prescindere dalla solidarietà di alcuni dei governi e quant'altro, rimane una realtà quotidiana che appunto per molti di noi che ci sono già stati sappiamo bene di che si tratta, e per qualcun altro che magari non ha avuto modo, oggi appunto sono degli altri frammenti per poter raccontare quello che è un'occupazione militare che va avanti da più di 60 anni, che continua a vedere milioni di profughi sparsi in giro per il mondo, all'interno in campi profughi nei paesi arabi vicino alla Palestina e all'interno della Palestina stessa. Un'occupazione che vede 1,5 milioni di persone segregate in uno stato di apartheid, che sono costrette con documenti israeliani a dover subire quotidianamente vessazioni o comunque a dover subire il peso di dover vivere in uno stato che si dichiara ebraico, pur essendo appunto di origine e provenienza palestinese e di fede, per esempio, musulmana. Quindi, cosa che vuol dire vivere anche per un palestinese sotto il razzismo di uno stato confessionale, mentre magari ci viene molto più facile parlare dell'Iran. Senza che mi perdo, comunque, quindi rimane quotidianamente un'occupazione nella West Bank, una sottrazione di terre, costruzione del muro che va avanti ormai da anni, separazione di strade, quindi in quello che è lo strozzamento delle vite dei giovani, dei giovani palestinesi, meno giovani, insomma, che non possono avere libertà di movimento, non possono, seppur trovandosi a pochi chilometri, decidere di andare a Gerusalemme, che appunto è stata anche riconosciuta a livello internazionale come capitale dello Stato di un possibile Stato palestinese, e quindi quotidianamente continuano le forme di resistenza che servono appunto per difendere metro dopo metro ogni pezzo di terra, perché il progetto sionista, che chiaramente si cela dietro anche i finti negoziati di pace, dietro le finte volontà di risolvere la questione parlando di sicurezza, non è nient'altro un progetto che va a compimento nel momento in cui ogni pezzo di terra è stato sottratto, annesso allo Stato di Israele e ogni palestinese espulso. Ma solo per dire una cosa, cioè, tipo, se abbiamo sentito il discorso di Netanyahu alle Nazioni dell'altro giorno, lui quello che iniziò dicendo è che i palestinesi non dovrebbero essere né cittadini dello Stato di Israele né soggetti ad esso. Cioè, implicitamente ha detto molto chiaramente che 1,5 milioni di palestinesi che stanno dentro Israele se ne devono andare, che è un po' la politica estera, un po' la politica proposta da Lieberman, che è un ministro degli esteri, ministro degli esteri, sì, insomma, che rappresenta tutta la destra dei coloni. Quindi viviamo in un momento in cui si celebra in televisione il riconoscimento dell'esistenza della Palestina, i coloni invece vengono armati, le manifestazioni vengono represse e l'occupazione entra in uno stato di normalizzazione, dove appunto si va a discutere solo su dove possono stare i soldati palestinesi, che fermano anche le manifestazioni dei palestinesi, dove possono arrivare i soldati israeliani. Quindi a noi ci interessa dare forza, dare spazio, dare voce alle lotte di resistenza, che sono quelle che portano avanti i compagni palestinesi nei territori, quelle che portano avanti i giovani palestinesi che si trovano, della diaspora, che si trovano sparsi in tutto il mondo, che sono le campagne di boicottaggio portate avanti anche da noi, appunto da chi non è palestinese di cittadinanza, ma insomma si sente vicino a questa popolazione, e quindi sono diversi i progetti che ci sono. Per esempio, appunto, penso tra un pochino sentiremo anche un pochino meglio da parte di Lochi Shadia e gli altri ragazzi che sono, insomma, che fanno, producono musica, e la loro forma di resistenza è stata attraverso un viaggio che hanno fatto nella West Bank. Questo progetto sia Existence is Resistance, che tra un pochino ci racconteranno meglio, e ci sarà un contributo video per chi rimarrà anche dopo la discussione. Quindi io penso adesso, penso pure di accennarla così, ah no, ricordo una cosa, sennò poi Giulia mi sgrida e me lo so dimenticato, diciamo l'importanza giustamente di dire perché, perché poi ci siamo detti spesso, perché la Palestina è anche dietro l'uscio di casa, nel senso che comunque è inutile parlarci, cioè non è per noi che non siamo palestinesi una questione secondaria parlare di Palestina qua, perché siamo antirazzisti nei nostri percorsi quotidiani e quindi non possiamo accettare nessun tipo di razzismo o forma di apartheid, perché siamo antifascisti tutti i giorni e ci dobbiamo difendere nelle strade e anche in ogni spazio pure di produzione culturale dalle nuove forme di fascismo che stiano creando, quindi sicuramente non potremo stare in silenzio di fronte a un fascismo coloniale che è quello dello Stato israeliano, appunto. Quindi per noi parlare di Palestina qua è appunto parliamo di boicottaggio, ma perché parliamo comunque in realtà attraverso il boicottaggio voglio parlare di dignità, di resistenza che impariamo appunto quotidianamente quando incontriamo uomini e donne palestinesi. Io penso che ho parlato pure troppo, quindi darò la parola nell'ordine a Bulos dei Giovani Palestinesi e dopo parlerà, sì, penso, insomma, chiaramente apriamo. Cerchiamo di fare interventi brevi, non come il mio, in modo che comunque lasciamo il microfono aperto a chi si sente di fare domande anche per avere un chiarimento, insomma non è una seduta accademica, quindi è un incontro, insomma, di scambio. Quindi dopo parlerà Stefani che ci racconterà la campagna Stop Agresco e altre campagne tipo quella sul treno ad alta velocità che vogliono far correre tra Tel Aviv e Gerusalemme, quindi noi siamo, insomma, qui conosciamo il problema, la lotta della TAV in Val di Susa, però c'è una TAV che va a tagliare in due la West Bank, insomma, e quindi è un progetto che ci va di contestare e cercare di bloccare in ogni modo. Successivamente diamo la parola appunto ai compagni che vengono da Londra, che vi rintrodurrò successivamente, magari Daniel li introdurrà uno per uno e comunque con loro avremo modo, ricordiamo domani ci sarà il concerto, quindi avremo modo, insomma, di ascoltarli ancora in quella che è la loro forma di produzione di resistenza, che è l'arte e la musica, quindi siete tutti quanti invitati al forte. E successivamente diamo la parola sicuramente a Bilal, che è compagno dei campi profughi di Aida nella zona di Betlemme, che è arrivato oggi, quindi abbiamo già avuto modo di incontrarlo pure perché, insomma, è stato gli altri incontri, c'è stato un altro incontro l'altro anno, magari ci faccio dare qualche aggiornamento da parte dei giovani palestinesi dentro i campi profughi, insomma, come si sono vissuti loro queste giornate e che forme di lotta immagina per il futuro. E poi credo che, insomma, all'incirca poi mandiamo video, facciamo un po' di domande e vai così. Vedi qualcosa di stile? No. Vieni. Ciao a tutti e a tutte. Vorrei chiarire qualche cosa per quanto riguarda la causa palestinese. La causa palestinese principale, si parla di popolo sotto occupazione, di profughi, quindi non si parla di creazione di uno Stato di fittizia, senza autonomia, senza niente, che non riguarda la risoluzione del diritto al ritorno per tutti i palestinesi. Quindi vediamo che quando si parla dell'apartheid non si parla solamente del muro in Cisgiordania, più che dal 40. Ma come lo devo fare? Com'è? Non posso. Ok, quindi quando si parla di uno stato d'apartheid, il muro è un frutto dello stato d'apartheid, però non è. Cioè, non è l'inizio dell'apartheid nei territori della Palestina, nel senso che nel 48, cioè la Nakba, sono stati espulsi la maggior parte del popolo palestinese, che sono i profughi, e poi nella legge della. Posso parlare in inglese? C'è il termine? The Law of Citizenship, cioè la legge. Cittadinanza, diritto della cittadinanza, che nega ai palestinesi il ritorno alle case loro, invece dà a qualsiasi ebreo, ovunque sia al mondo, di tornare a di diventare un cittadino israeliano. E questa è una segregazione razziale che prima, dopo aver fatto la pulizia etnica. Quindi la terza cosa, che i palestinesi che vivono nel territorio del 48, che dicono che hanno la cittadinanza israeliana, hanno gli stessi diritti, bla bla bla, non è vero, non c'è l'eguaglianza fra gli arabi palestinesi e gli israeliani. Quindi, partendo dai dati di fatto che l'apartheid è del 48, la lotta è contro l'apartheid e la segregazione razziale dello Stato, del movimento sionista. Penso che parlare di due stati è solamente una cosa che ancora peggiora la situazione, nel senso che non risolve niente. Qualsiasi processo di pace che non riguarda la risoluzione del diritto della questione dei profughi non è pace. Comunque, per quanto riguarda la lotta ci sono vari modi per lottare contro l'occupazione, quella pacifica e la lotta armata. La lotta pacifica, cioè a livello economico, culturale, diplomatico, accademico. In Italia non la vedo così, non ci sono i frutti ancora, diciamo. A livello militare ci sono gli accordi tra Israele e l'Italia, a livello accademico. Quindi dobbiamo lavorare su questi livelli pure, cioè non solamente. Comunque non voglio parlare troppo. Mettere in ordine la casa palestinese, prima di tutto la casa palestinese, perché oramai non c'è la rappresentanza per tutti i palestinesi. Per esempio, quando Abu Mazen va alle Nazioni Unite chiedendo il riconoscimento dello Stato palestinese, diventare un membro, o crea il rischio di non rappresentare più i profughi palestinesi. Questo è un esempio. Quindi noi, siccome l'OLP dovrebbe garantire la rappresentanza a tutti i palestinesi, ovunque siano al mondo, non c'è la legittimità oramai di rappresentare tutti i palestinesi. Quindi noi vogliamo ricostruire l'OLP per poter rappresentare tutti i palestinesi, per pianificare un piano di lavoro, una strategia nuova, perché i negoziati non sono una strategia, perché per la causa palestinese dobbiamo porre fine all'occupazione prima, poi si parla della riconciliazione con l'altra parte. Non si può parlare di pace mentre c'è ancora l'occupazione, mentre ci sono ancora i profughi. Dobbiamo capire che la causa è profughi e l'occupazione. Qualsiasi altra cosa che non parla di queste cose non è pace. Quindi vi ringrazio. Basta. Allora, lo chiamiamo a parlare Stefani. Ah, del comitato Stop Carmela Grexco, adesso ci insomma, spiegherà un po' lei che vuol dire. Io vi volevo dire semplicemente una cosa. Uno dei temi, insomma, che prima pure Marco ha citato era questo del boicottaggio. Esiste questo sito che si chiama BDS Movement, che lo vedete qua, movement.net, dove potete trovare, insomma, tutte le campagne in inglese, comunque tutte le campagne di boicottaggio internazionale che ci sono adesso nel mondo. Questa campagna è nata nel 2005, l'hanno lanciata i palestinesi come forma di boicottaggio, sanzioni, quindi gli stati e disinvestimento, quindi riguarda gli investimenti, soprattutto quelli delle armi, nei confronti dello Stato di Israele. A livello mondiale questa campagna, diciamo così, è stata molto raccolta, tanto che sono nati diversi comitati su BDS. Per quanto riguarda l'Italia, sicuramente quella sulla Carmela Grexco, che adesso ci racconterà Stefani, ha avuto molto successo, tanto che ha avuto un esito positivo. Ne sono state fatte altre di campagne, una in particolare è contro il CTS, che conoscete bene tutti, che è il centro di turismo degli studenti, poiché il CTS lo scorso anno ha fatto una campagna chiamata Il Bello di Israele, in cui invitava gli studenti in particolare a iscriversi al CTS e a recarsi nella bella Israele, perché faceva, insomma, oltre a fare addirittura degli sconti per quanto riguardava il viaggio, insomma, proponeva un Israele altamente a portata di mano degli studenti. Sono state fatte delle opere di boicottaggio anche su questo, ricordando al CTS che oltre a far vedere il bello di Israele esiste dietro il muro tutto quello che è il brutto di Israele, cioè uno stato di occupazione, un muro che si sta costruendo, le colonie, e quindi invitavamo il CTS a far viaggiare gli studenti e le studente anche nella West Bank piuttosto che a Gaza, laddove è impossibile circolare, visto che Israele comunque continua a decidere chi è che può entrare oppure no nel suo stato per poter andare in Palestina. Questo poi è un altro argomento. Oltre a questo, nello scorso quest'estate, che c'è stato il Gay Pride, il CTS e anche un'altra compagnia, che adesso vi dico, un'altra agenzia che si chiama, che adesso non mi ricordo. Non ho studiato perché non lo dovevo fare io questo intervento. E comunque praticamente anche qui, attraverso una campagna volta a tutta la comunità LGBT, portata avanti tramite queste agenzie turistiche, una in particolare si chiama Quiki, lo potete vedere qua, Quiiky, e il CTS, sponsor ufficiali del Gay Pride di quest'anno, quindi avevano gli stand proprio a Piazza Vittorio, e cercando di coinvolgere la comunità LGBT, quindi facendo dei pacchetti proprio promozionali per andare in Israele, e rappresentavano appunto Israele come lo Stato aperto, l'unico Stato democratico di tutto il Medio Oriente che accoglieva tutta la comunità LGBT, e anzi Tel Aviv, insomma, potevi andare lì a rimorchiare quanto era bello, e c'erano anche bei maschioni. Sarà anche vero, nel senso, noi non diciamo che non è vero, però ovviamente anche qui è nata questa campagna che quest'anno si è sviluppata tanto, lanciata da le compagne queer palestinesi, soprattutto di Gerusalemme, in cui nel corso della giornata, se speriamo riuscire a entrare in contatto, che hanno lanciato questa campagna proprio chiamata Pinkwashing, cioè pulire questa facciata che Israele vuole dare di pulizia di se stesso, usando tutta la comunità LGBT, quindi un po' pink. Abbiamo, insomma, si è aderito a Roma, è stata fatta, delle compagne e compagni hanno fatto questo volantinaggio proprio al Gay Pride, quindi diciamo che la campagna BDS è una campagna che tutte quante e tutti quanti possono portare avanti anche nella propria lotta quotidiana, dall'università, appunto, a cominciare dal CTS, piuttosto che tutto il livello accademico, di cui oggi noi non parleremo, ma c'è tutto il livello accademico di boicottaggio per quanto riguarda gli scambi che non solo l'università stanno facendo, molto stretti con le università a Tel Aviv, ma anche per quanto riguarda, per esempio, gli scambi più specifici sull'infermieristica, quindi medicina, visto che loro possono, insomma, sperimentano molto, quindi anche su questo, insomma, ci sono i gruppi di tutto l'apparato, ovviamente militare, perché fanno degli addestramenti, tutti gli apparati ovviamente militari italiani, su come ci si comporta in caso di panico, in caso di attacco terroristico, tra virgolette, e via dicendo. Quindi ovviamente sulla campagna BDS è una campagna che tutte e tutti possono portare quotidianamente avanti senza aver bisogno di chissà che, quindi vi invito, insomma, a informarvi all'interno dei vari siti che ci stanno, e che ha avuto, appunto, Stefani ci parlerà, anche i suoi frutti positivi. Ciao a tutti e tutte. Come diceva Cristina, la campagna BDS è lanciata nel 2005. Era un anno esatto dopo la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sul muro e sull'occupazione israeliano. Vedendo che non è cambiato niente in quell'anno, i palestinesi hanno lanciato questa campagna, chiedendo a noi tutti di fare azioni concrete per porre fine all'occupazione, lo smantellamento del muro, le pari diritti per i cittadini palestinesi di Israele e il riconoscimento del diritto di ritorno. Queste sono le tre richieste della campagna BDS, che non ha cercato di promuovere una soluzione al conflitto, ma si basa semplicemente nel diritto internazionale. E quindi noi in Italia abbiamo risposto a questa chiamata cercando di trovare campagne, lavorare su campagne molto strategiche. Quindi abbiamo scelto nel 2009 la campagna contro la Grexco. Questo era adesso perché è in liquidazione, era il più grande esportatore di prodotti agricoli da Israele. 80% del mercato in Europa, quindi molto per esporto. E 70% dei prodotti che vengono coltivati nelle colonie, sulle terre rubate ai palestinesi, venivano esportati dalla Grexco. E noi abbiamo scelto questa campagna anche perché le navi della Grexco approdavano una volta a settimana a Vado Ligure in Italia, quindi l'Italia era un porto d'ingresso per il mercato europeo. E poi era 50% proprietà dello Stato, quindi un legame diretto con il governo israeliano. Ci dava un modo di comunicare alla gente perché dovrebbero boicottare questi prodotti. E poi c'è il legame con l'agricoltura e l'occupazione, cioè il furto di acqua, di risorse, di terre. Quindi ci dava l'opportunità di parlare con la gente che compra frutta e verdure, quindi vuol dire parlare un po' con tutti. E questa campagna è stata portata avanti a livello nazionale in Italia, c'erano diversi comitati in Italia portando avanti iniziative di pressione sui supermercati. Abbiamo scelto soprattutto Coop Italia, che dovrebbe avere modalità diverse della grande distribuzione, e questo abbiamo saputo che non è così. La Coop ci ha incontrato diverse volte e a un certo punto hanno deciso di sospendere le vendite dei prodotti delle colonie della Grexco. Questo era per noi un bel passo avanti, anche se volevano commercializzare comunque i prodotti della Grexco sospendendo solo quelli delle colonie. Però c'è stata una campagna mediatica, politica contro la Coop, con le solite accuse di antisemitismo, eccetera, e la Coop ha fatto marcia indietro. E quindi questo è quello che spesso succede. È molto importante, portando avanti questa campagna, di essere pronte per queste reazioni che ci saranno sempre quando c'è una vittoria. E a giugno di quest'anno c'è stato il primo forum sulla Grexco a livello europeo, con 13 diversi paesi presenti, e subito dopo abbiamo cominciato a sentire le notizie dei gravi problemi economici della Grexco. Non possiamo assolutamente dire che è tutto dovuto al boicottaggio, farebbe piacere, ma non è così. Cioè, si capisce che la società era una società statale, gestita molto male, usata per dare sussidi agli agricoltori e anche in nomine politici. E quindi, però, senz'altro il boicottaggio ha avuto il suo impatto. E abbiamo visto anche dopo che i primi problemi della Grexco, quando è stato messo in vendita, abbiamo visto con campagne di pressione presso le società internazionali che pensavano di fare un'offerta per comprare la Grexco, che si sono ritirati. Questo sicuramente è una parte ha giocato la campagna di boicottaggio, perché chiunque fa un po' di indagini sulla società Grexco in internet troverà soprattutto materiale sul boicottaggio. E adesso siamo senz'altro, è un momento per festeggiare questo risultato, che la Grexco è in liquidazione, però è anche un momento di stare molto vigili, perché tutti quei agricoltori che usavano la Grexco per esportare i loro prodotti verso verso l'Europa non è che spariscono. E quindi ci sono altre offerte per comprare la Grexco, c'è una società giapponese, in questo momento c'è una campagna di forte pressione contro questa società giapponese che ci hanno detto gli attivisti giapponesi che hanno parlato con i dirigenti che hanno detto che le notizie che stanno pensando di comprare la Grexco sono false. Questi sono stati pubblicati su il primo giornale finanziario israeliano Globes, e quindi o Globes si è sbagliato completamente oppure questa società già ci sta ripensando e quindi dicono che la notizia è falsa. Quindi è un momento di fare forte pressione su qualsiasi azienda che pensa di investire nella Grexco e poi di vedere chi prenderà posto alla Grexco, perché gli agricoltori in questo momento stanno cercando altre vie per esportare i loro prodotti. Quindi ci sono altre società, c'è la Mehadrin Newport, che è molto difficile pronunciare, comunque loro erano comunque secondo esportatori di prodotti agricoli e quindi è molto probabile che tanti agricoltori cercheranno di esportare i loro prodotti con questa società. Quindi la campagna Stop Agresco in questo momento stiamo cercando di vedere dove andrà la Agresco, se venderanno, se esisteranno ancora gli stessi marchi che avevano prima, e comunque la nostra intenzione è di seguire con molta attenzione quello che succede con la Grexco e comunque di portare avanti campagne di boicottaggio contro i prodotti agricoli, perché è talmente fortemente legato con l'occupazione e il futuro della terra dei palestinesi che ci sembra un buon obiettivo. E un'altra campagna in Italia che è stata lanciata alla fine dell'anno scorso è la campagna Stop That Train, che è la campagna che chiede alla ditta Parmense Pizzarotti, che sta coinvolta nella costruzione della linea ad alta velocità tra Gerusalemme e Tel Aviv, che taglia per 6,5 km la Cisgiordania occupata. E la Pizzarotti sta costruendo quello che sarebbe il tunnel più lungo della storia di Israele, quindi il loro coinvolgimento è fondamentale per questo progetto. Quindi noi in Italia quello dovrebbe essere proprio un obiettivo principale per la campagna boicottaggio, perché se riusciamo a far ritirare la Pizzarotti, che non sarà assolutamente facile, perché questa non è una ditta con scrupoli, comunque vuol dire bloccare il progetto. C'è stata una grande vittoria di questa campagna a livello internazionale quando a marzo di quest'anno la Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche che erano coinvolte nel progetto, hanno deciso di ritirarsi. Purtroppo l'hanno fatto un po' dopo aver fatto il lavoro, quindi non hanno bloccato il progetto. Comunque ha mandato un forte segnale perché il ministro dei trasporti tedesco ha definito il progetto contrario alla politica estera europea, e l'Italia fa parte dell'Europa, e anche potenzialmente contro il diritto internazionale. Noi questo potenzialmente non ci sta bene, perché è chiaro che questa linea sta attraversando i territori occupati e questo è solo l'ultimo di una serie di ingiustizie in quella zona, che è molto vicino a Gerusalemme, che hanno già perso 2/3 dei terreni agricoli a causa della costruzione del muro. L'occupazione in quella zona è il doppio della media in Cisgiordania, quindi è una zona già fortemente colpita dall'occupazione, e adesso abbiamo il Pizzarotti che vuole fare i soldi facendo questo progetto. Loro hanno cercato di loro hanno cercato di giustificare il loro coinvolgimento in diversi modi. Prima hanno detto che non erano coinvolti nella progettazione della linea, e questo è una cosa ridicola per una società internazionale che ha progetti in tutto il mondo, e dire che non ha l'obbligo di convalidare i suoi progetti per essere certa che sono conformi con il diritto internazionale. Poi hanno detto che stanno lavorando nel tunnel solo dalla parte di Israele, Quindi loro scavano fino a un certo punto, poi si fermano, poi il loro partner israeliano scava dall'altra parte. Anche se questo fosse vero, è una cosa ridicola, perché è una linea ferroviaria, quindi non lo puoi spezzare in sezioni. E non c'è, i nostri amici israeliani, che dovrei dire che tutto, quasi tutto quello che sappiamo su questa linea viene dal progetto di Who Profits, che è della collezione delle donne per la pace in Israele, che fanno ricerche sulle ditte che sono coinvolte con progetti che, legati con l'occupazione. Loro ci hanno assicurato che da nessuna parte nel contratto con la Pizzarotti c'è scritto che loro non scavano dalla parte della West Bank, quindi questo è falso. E ci hanno detto che siccome è un tunnel c'è poco impatto ambientale, perché è tutto sottoterra, no? E quindi già pensando a quanto impatto c'è la TAV su Nord Italia, potete immaginare su una zona sotto occupazione. E poi hanno detto che comunque se loro si ritirano dal progetto andrà avanti lo stesso con il loro partner israeliano. Questo è completamente falso. Una parte dei contratti, un requisito dei contratti era che dovevano le società israeliane fare partnership con società estere, perché non hanno le capacità di scavare questi, è un tunnel di 11 chilometri, quindi ci vuole certe capacità che in Israele non esistono. Quindi senza la Pizzarotti questo progetto non va avanti. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare, non è assolutamente facile lavorare su una società come la Pizzarotti, stiamo cercando di portare avanti diverse iniziative, prima di tutto una petizione in internet lanciata dal sito internazionale change.org, che chiede alla Pizzarotti di ritirarsi. E questo, ogni firma manda un messaggio alla Pizzarotti, giusto un po' per fargli capire che a livello internazionale la gente sta guardando questo progetto. E abbiamo scritto a tutte le banche che hanno finanziato la Pizzarotti, ma quello che di cui stiamo puntando è la stessa tattica che hanno usato contro la francese Veolia. Questa è una grande società di servizi in tutto il mondo che sono coinvolti nella linea di la ferrovia leggera a Gerusalemme Est occupata, e anche un'altra discarica nella Valle del Giordano. Quindi si usa una direttiva europea che permette all'amministrazione locale, provinciale, comunale, di escludere la Pizzarotti da gare per lavori pubblici. La Pizzarotti fa quasi tutto, solo lavori pubblici. E quindi è stato usato contro la Veolia, che ad agosto ha annunciato pesantissime perdite e costrette a ritirarsi da 37 paesi in giro per il mondo. Quindi questa è stata una tattica che gli ha fatto perdere tanti contratti per un totale di 10 miliardi di euro, è molto efficace, è stato usato in Inghilterra, in Australia, anche in Italia. Sì, però dico, la campagna è stata molto forte in Inghilterra, in Australia, dove hanno perso tanti soldi, e quindi fa capire che c'è un costo al loro coinvolgimento con l'occupazione. È quello che noi dobbiamo fare con la Pizzarotti. Quindi abbiamo lanciato la campagna Libera il tuo comune dalla Pizzarotti, dove stanno portando avanti in Toscana, a Napoli, a Roma, sinceramente, non so se ci si può fare qualcosa. Però, senz'altro, se riusciamo anche a far passare questa delibera per escludere la Pizzarotti in un piccolo comune che non avrà mai lavori con la Pizzarotti, comunque è un atto simbolico. Se riusciamo a farlo dove potrebbero avere lavori, sarebbe veramente un forte risultato per la campagna. Su questo stiamo lavorando. Cioè, il punto è di fare campagne strategiche, anche come quello del CTS oppure sul pinkwashing, che possono avere un impatto, che possono danneggiare l'immagine di Israele e avere costi economici per chi è coinvolto. Grazie. Se ci avete domande... Se ci avete domande, ovviamente alzate la mano e le facciamo, se no proseguiamo. Allora, vi invito a parlare Lokia e Shadia. Vabbè, comunque potete, tanto prima che facciamo il video, le faccio, insomma, se vi vengono in mente. Allora, io volevo dire una cosa sempre su questi due giorni. visto che insomma, innanzitutto volevo ricordare che queste due giorni è organizzata da il Centro Sociale Forte Prenestino, da Free Palestine Roma, che c'ha un blog che si chiama freepalestine.noblogs.org, e da Existence is Resistance, che è questo progetto che adesso loro ci racconteranno, di un viaggio insomma, di veri MC hip-hopperi in West Bank, in particolare al campo profughi di Balata a Nablus. E, allora, due cose volevo dire. Una riguarda diciamo così, anche il boicottaggio a livello musicale. Parleremo adesso di musica. Ultimamente sono venuti diversi, venuto in particolare un compagno degli Anarchici Contro il Muro, so che ce ne sta anche un altro qua, penso, non so, comunque, c'è un altro, comunque loro ci hanno spesso detto, gli Anarchici, quindi che è un gruppo molto forte, che fa una campagna molto spesso a fianco della popolazione palestinese, gli Anarchici Contro il Muro, insomma, non c'è bisogno che vi racconto io chi sono compagni e compagne israeliane, che è, appunto, sono compagni e compagne che lavorano proprio all'interno di Israele sulla campagna di boicottaggio, e poi in particolare di alcune azioni, per esempio al villaggio di Belain, contro la costruzione del muro, quindi proprio a fianco con la popolazione palestinese. Loro ci dicevano comunque di quanto alcune volte anche DJ o persone, cantanti famosi che si professano di sinistra, o persone del tra virgolette movimento un po' in generale in Europa, vanno a suonare a Tel Aviv, perché comunque pensano che andando a suonare a Tel Aviv e parlando male tra virgolette dello stato di occupazione che Israele fa nei confronti di tutta la Palestina, pensano di fare un'opera utile. Loro ci hanno più volte ripetuto che questa cosa non è vera, perché una delle punti fermi proprio della campagna di boicottaggio è proprio il boicottaggio, e vale in tutti i sensi, quindi non andare neanche a suonare per parlare male di, o molte volte spesso dei DJ che vengono chiamati anche di compagni e compagni a suonare nei locali, penso appunto locali gay piuttosto che lesbici, c'è una comunità lesbica e gay molto forte a Tel Aviv, quindi l'invito che loro ci facevano, che hanno fatto insomma qui in Italia, e quello, visto che c'è ultimamente un grande legame tra l'Italia e Israele, anche a livello culturale e anche a livello più underground, di non recarsi proprio a suonare in Israele, perché comunque anche andando si avvalla un'immagine comunque di democrazia che Israele dà, cioè si può andare a suonare, si può andare a fare determinate cose lì e non nessun altro paese del Medio Oriente, anche dando la possibilità alle persone che vanno in Israele tra virgolette di dire che c'è lo stato di occupazione. Quindi l'invito anche qui è ad andare. Ultimamente è stata fatta questa campagna Yellow Biafra, cantante dei The Candies, che doveva andare a regare, doveva suonare appunto a Tel Aviv, e gli Anarchici Contro il Muro stavano lavorando molto su questo, che fino all'ultimo anche Yellow Biafra ha detto no, io voglio andare perché voglio dire eccetera eccetera, però alla fine è stato convinto e non c'è andato. Quindi questa è una cosa. La seconda cosa riguarda il lato economico del tutto. Prego. Una delle cose che viene nella maggior parte dei casi dei artisti, artiste che hanno frequentato i nostri spazi, utilizzata in termini giustificatori della scelta di fare un tour in Israele, è quella di una società multiculturale come la società israeliana, fatta di mille contaminazioni. Ed è vero che comunque si tratta di una società composta da migranti di tutto il mondo, ma una società che vive su una piramide gerarchica dettata da ovviamente da una natura militare, perché come sappiamo ogni persona, uomo o donna che sia, deve fare il servizio militare in Israele, e dipende dalla tua provenienza, nella maggior parte dei casi, che ruolo coprirai dentro la piramide della società israeliana. Quindi ovviamente non esiste multiculturalità senza l'orizzontalità, e quindi è una scusa non vendibile quella che vado a suonare con i migranti di tutto il mondo. insomma, questo. Certo. No, volevo dire soltanto che si sente molto anche parlare del fatto che chi va a fare concerto in Israele verrà usato per creare questa immagine di Israele come un paese normale. E come sapete, a giugno a Milano c'è stato questo 10 giorni di propaganda su Israele con un'installazione in Piazza del Duomo, dove c'erano i totem con i video che parlava delle meraviglie di Israele. E su questi c'erano tutti i concerti di grandi star internazionali, cioè vengono utilizzate per creare questa immagine di un paese normale. Allora, secondo me vabbè dopo, questo mai, che rispetto a domani il concerto, perché sennò lo dico dopo. Sì, io direi... Sì. No, allora, perché domani ci sarà questo concerto che vedete qua, di appunto Loki, Logic e Shadia Mansour e del DJ Awate, si dice così, the name, e che noi vogliamo insomma ringraziare tantissimo per essere venuti a Roma, è la prima volta, it's the first time, che loro tocca, che loro vengono in Italia, e diciamo che soprattutto Loki e Shadia hanno fatto, anche Logic, hanno fatto insomma questo tour in Israele, in Palestina. E poi ce lo racconteranno loro, chiamato proprio Existence is Resistance, cioè cercare di coinvolgere soprattutto i giovani, quelli anche molto piccoli, che vivono, da quando nascono comunque i palestinesi vivono sotto occupazione militare, quindi le uniche cose che vedono sono i militari, a tirar fuori, perché poi vivere sotto occupazione, insomma si dice, insomma, vivere sotto occupazione, però anche a livello psicologico, a livello emotivo, a livello non solo pratico, ma esiste anche un'emotività, la psicologia delle persone, quindi a cercare di tirar fuori attraverso la musica la rabbia, no? Che si ha dentro. E quindi ci, insomma, sembrava buono per una volta avere un concerto per far parlare di Palestina. E questo anche perché questo rientra un attimo nella questione dei soldi, che, insomma, sulla questione economica, che verranno alzati domani al Centro Sociale Forte Prenestino, in cui uno dei problemi, secondo noi, più forti che ci sono in Palestina negli ultimi anni, e di cui anche i stessi palestinesi stanno riflettendo, è quello dell'immissione massiccia di soldi, tanti soldi, da parte dell'ONG, che vanno a finanziare comunque dei progetti ben specifici, con delle peculiarità ben specifiche, con dei partiti ben specifici, e devono rendere conto anche, tra virgolette, politicamente di quello che fanno. Quindi, diciamo così, abbiamo sempre considerato questi lavori anche molto come ammortizzatori sociali di quello che è poi la lotta in Palestina. E quello che invece, insomma, come movimenti dal basso, penso alle varie carovane che siano state fatte in Palestina, penso a Corum che è andata a Gaza per ricordare Vittorio Arrigoni adesso a maggio, e penso a tutto Sport sotto l'assedio quando è andata, insomma, in Palestina attraverso lo sport. L'idea è quella di avere comunque degli scambi egualitari, quindi decidere insieme i progetti, dove investire i soldi per i progetti, in cosa servono i soldi, e non essere noi che portiamo i soldi, ma le iniziative costruirle insieme. Per questo, insomma, poi dopo loro parlerà anche Bilal, che è questo compagno che viene dal campo Aida, a cui, diciamo così, principalmente il concerto di domani sarà devoluto l'introito, proprio, insomma, perché le iniziative noi cerchiamo di costruirle insieme proprio con i palestinesi. Questo è anche l'invito, molte volte quando dicono adotta, no? Ci stanno talmente tante cose, adotta questo, adotta quest'altro, manda i soldi, eccetera. Insomma, la possibilità di andare in Palestina c'è sempre, prendete un aereo, andate in Tel Aviv, andate in West Bank, ci potete andare da soli, da sole, andateci, costruite relazioni, scambiate progetti di lotta politici, e se servono i soldi, insomma, appunto, cerchiamo di farlo sempre in ambiti pubblici, politici, sapendo dove vanno a finire e facendolo noi, insomma. Va bene, io ho parlato anche troppo, quindi faccio parlare Loki. Thank you. Yeah, okay. To start with, on the issue of BDS, we have a shop in London called Ahava, which basically creates its makeup on an illegal settlement on the West Bank. and successfully from weekly demonstrations in London, that shop has been closed down. Okay. Campaign to get it shut down and weekly demonstrations outside of it, and after over a year it's now been closed down because of the demonstration. Quindi c'era una campagna a Londra perché c'è questo negozio che si chiama Ahava, che usano fanno ricerca illegali nel West Bank per cosmetici e trucchi, e dopo un anno sono riusciti a chiuderlo, e quindi adesso è chiuso. Sì, magari. Non è perché parlo inglese meglio di lui, ma solo per facilitare la chiacchiera, perché alcune cose lui magari non sa bene di che si tratta. Comunque, just because my dad, if you don't speak too long, I'll write down. Okay. And so that is a victory for us and for all of those that are working for equality in the world, because I think it's, while it is important to not legitimize the entity that Israel is as an entity, and also not legitimize the expansion, because this is what the settlements are about, it's a state which has never defined its own borders. And these settlements that Mr. Lieberman lives on, one of them, are not only illegal, but they are the frontier of expansion. So it's important to not only target the entity itself, but also the concept of Zionism. Allora, intanto, appunto, questa campagna sulla Hava, appunto, è stato un successo, per ricordarne uno tra gli altri, ma più che altro non solo in quanto per aver interrotto questa relazione commerciale, ma pure per quello che è la... appunto è una battaglia che parla di equalità per tutti, di uguaglianza, no, uguali, uguaglianza per tutti quanti, ed è una battaglia che cerca di come dire, intaccare la legittimazione di Israele a livello internazionale, Israele che lui definisce appunto neanche come uno Stato ma come un'entità, in quanto è uno Stato che si è definito senza aver mai dichiarato i propri confini, e l'espansione delle colonie che viene appunto, che lui descrive come per lui non solo la forma reale appunto per portare avanti sia questa espansione, ma proprio per portare avanti quello che è il concetto del sionismo, il progetto sionista, che è quello di annessione di tutta la terra. Because I feel the big lie that we are fed in the rest of the world, and actually part of the reason somebody mentioned the music industry and Israel and the relationship, the close hand in glove relationship, if you look back at who the Balfour Declaration was to, it was to Rothschild, okay? This was a banker. So when we look at the music industry and we look at how what the purpose of the music industry is today, who's in positions of prominence, and what purpose is the music industry by and large serving, it's actually not surprising that there is this relationship between our musicians and the state of Israel, because this is capitalism, and this is, I'm not saying it's a good thing, I'm saying it's something that we should definitely fight 100,000,000%, but I'm saying this is the way the music industry is and what the music industry is. And individual musicians should be targeted and pressured to not do that, in my opinion. E appunto lui poi parlava della sua posizione in quanto musicista e artista, dice anche io faccio parte di quel, in qualche modo appartengo a quel mondo che è causa del problema, quindi parla che è l'industria musicale, appunto nel senso lì poi si rifà nominare la dichiarazione di Balfour, che dice una dichiarazione appunto fallata e portata decisa da chi stava in potere. Allo stesso modo, cioè, per fare un esempio anche molto semplice, basta guardare l'industria musicale, qual è lo scopo dell'industria e chi ne guadagna, quindi è semplicemente un altro pezzo di capitalismo, e quindi dice, non è che dico bisogna accettarla, semplicemente anzi dice bisogna combatterlo quotidianamente, però appunto capire che il problema insomma sta anche molto più alle fondamenta, quindi dice non sono neanche sorpreso, si rilegava la questione degli artisti che vanno a suonare in Israele, non mi sorprende il fatto che artisti anche di un certo calibro vadano a suonare là, perché se là c'è mercato e là possono alzare dei soldi, sicuramente rientra nello stesso meccanismo, insomma. And I think one of the big lies that is used to serve Zionism is that Zionism is fed to us in the outside world as being about self-determination, but we know that Zionism is about colonialism, is about ethnic cleansing, and is about supremacy. It's not about self-determination. But the simple issue is they say, if you oppose Zionism, you are anti-Semitic. Not just forgetting the fact that the Palestinians themselves are Semites, more so than somebody from Russia, yeah? But also the fact that the truly anti-Jewish people in our history, I think we are all in agreement that the Nazi Party in Germany were anti-Jewish. Well, in 1933, there was a document called the Havara Agreement. And if anybody doesn't know about this document, we should all research this document. In 1933, the Havara Agreement, signed between the Zionist movement in the United States and the Nazi government in Germany in 1933, to move 50,000 German Jewish people and place them where? To place them in Palestine. So the truly anti-Jewish, the most anti-Jewish of anti-Jewish, supported the Zionist experiment and project. So we must never let people bully us and say to us, we do this because we have a problem with Jewish people. No, we refuse to believe that Judaism is defined by Zionism. Zionism does not define Judaism. And the truly anti-Jewish Nazi Party in 1933 signed a document to move 50,000 German Jewish people and place them in Palestine. That happened. That happened. And we shouldn't be bullied into silence about what actually happened. Allora, la più grande bugia, diciamo la... Yes, just... Ah, ok. Diciamo... Appunto lì si ritornava alla questione del sionismo, la più grande frode insomma che ci fanno raccontandoci, parlandoci del sionismo, il parlarci di autodeterminazione, la cosa che non dobbiamo mai dimenticare è che dobbiamo sempre insomma in qualche modo gridare ad alta voce con rabbia che il sionismo non parla di autodeterminazione ma parla di discriminazione, parla di apartheid, parla di un progetto coloniale che è appunto il progetto dello Stato di Israele. La questione che molto spesso appunto come sappiamo insomma parlare di dire di essere antisionisti, se uno dichiara di essere antisionista viene tacciato di antisemitismo, intanto appunto ci ricorda una cosa che tutti i palestinesi ci ricordano, che non possono essere antisemiti perché sono semiti loro stessi per iniziare, oltretutto appunto quello che lui dichiara è che molte dei più grossi parla di un accordo che c'è stato nel 1933, c'è anche questo documentario che parla di questo Havara Agreement, l'accordo di Havara, dove la comunità sionista americana, American Zionist Community, ha fatto stretto un accordo con il Terzo Reich, organizzando insieme anche la deportazione di grosse quantità di immigrati ebrei verso la Palestina. Questo per dire che appunto cioè, spesso si viene, cioè quello che ci tiene pure a sottolineare di nuovo è quindi che non possiamo mai accettare che il giudaismo venga definito dal sionismo, perché non sono due cose sovrapponibili e non sono assolutamente la stessa cosa. Uno è una cultura, una religione che ha le sue tradizioni, una sua storia, appunto per quanto complicata e difficile. Un altro è un progetto coloniale che si è sviluppato dalla fine del 1800 e che trova oggi una forma ormai quasi sembra, insomma, verso una fase di risoluzione, nel momento in cui tutta la Palestina sarà occupata, nel momento in cui il progetto coloniale continuerà in maniera sempre più invadente, se non viene fermato, il progetto sionista si porta a realizzazione. Questo anche quando in quel pezzo di terra potranno essere insediate solo persone di religione ebraica, che è poi questo una delle questioni fondamentali, quindi la deportazione dei palestinesi e l'importazione, perché quello è, di carne umana, che sono immigrati ebrei che da tutto il mondo vengono portati, anche per dire che anche le colonie, per capire, vengono abitate o lasciate, appunto, vengono colonizzate dai migranti di origine ebraica, che vengono appunto magari di classi molto basse o comunque persone poverissime, e vengono costretti a diventare carne da macello, a diventare in qualche modo l'avanguardia, il picco d'avanguardia di questo progetto, insomma. And another thing that shows that it's just as much about de-Arabizing the land as it is about Judaizing the land is the fact that there's something in Israeli law called the grandfather clause, which they also ironically refer to as the law of return. When you look at the simple fact that the majority of Palestinian people are refugees, the majority in existence, and where the largest refugee community is from, Palestine, they have the right of return under international law. But ironically, Israel has a law called the law of return, which says that any person in this room or anywhere in the world who has one Jewish grandparent, you don't have to be Jewish, you have one Jewish grandparent, you can go and get citizenship to live in Palestine, Israel, tomorrow. But a person whose parents, grandparents, great-grandparents, great-grandparents, great-great-great-grandparents, great-great-great-grandparents have lived in Jerusalem forever, as far back as they can go, has no country, has no nationality, has no rights. And you are taught to believe that this is normal, that this is correct, that this is right, that there is no problem with this situation. You're telling me that if I say a person who is Russian and has one grandparent who happens to be Jewish has no right to go and claim citizenship in the Middle East, I'm doing it because I'm racist at the expense of the indigenous community, that we're doing it because we're racist? What to that person's one grandparent? That's the only Jewish person in the family, one grandparent, and that means you're racist. This is the idea that we are taught to normalize and believe is normal. And in terms of certain parties in England having certain interests, we have the BBC, the British Broadcasting Corporation. The Director General of the BBC is a man called Mark Thompson, he's the highest paid man in the public sector in the country, in England. He makes almost £1 million per year. This is a man that in 2005 went and had a meeting with Ariel Sharon. This is a man that when the Operation Cast Lead took place in Gaza, the BBC were being asked to air a DEC appeal, which they air for every type of situation when there's humanitarian crisis, they air the DEC appeal to raise money. He said to retain the impartiality, they cannot air the DEC appeal. So if we think that this has nothing to do with the fact that in 2005 he was sitting and meeting with Ariel Sharon, who the Israeli government themselves said is a war criminal, what, for what reasons is Ariel Sharon sitting with the most powerful man at the BBC? He's there for Israeli interests and for the expansion of Israel. This is what it's about. Ok, sollevava una questione principale, appunto, che è in qualche modo una delle contraddizioni più forti che fanno capire pure in che termini vengono utilizzati diversi pesi e diverse misure per le stesse questioni. Quindi parlava sulla, appunto, intanto di quello che è il processo che si sta avendo, di de-arabizzazione della terra, dei territori occupati palestinesi, mentre allo stesso momento c'è un processo di giudaizzazione, quindi questo, diciamo, scambio di persone. Da un lato la continua espulsione forzata di persone che sono legate in maniera ancestrale a quella terra, e dall'altro lato la possibilità di ingresso. Quindi mentre vediamo milioni di palestinesi, la maggior parte della popolazione palestinese che si trova profuga in altri paesi e chiede il diritto al ritorno, un diritto sancito anche da risoluzioni dell'ONU del 48, questo diritto di ritorno nella propria terra, nelle case dove hanno ancora hanno la chiave, gli viene negato, mentre lo Stato di Israele, la democrazia appunto quella che viene definita l'unica democrazia del Medio Oriente, ha una legge che è la legge del ritorno, che permette a chiunque sia di religione ebraica o chiunque abbia un parente di seconda generazione di religione ebraica di poter ritornare. Quindi nello stesso territorio una parte della popolazione che vi si trovava, che ci abitava, è stata espulsa e gli viene negato il ritorno. Quella stessa democrazia, appunto, la chiamiamo così anche per svuotarla, perché è un termine che ormai si svuota il suo significato. Questa democrazia, esatto, dà diritto al ritorno a chiunque non deve tornare da nessuna parte, perché magari non c'è mai stato, perché magari suo nonno era di religione ebraica, perché magari non c'è motivo, e magari lo fa entrare e gli dà pure casa di qualcuno che è stato cacciato. Questo però per raccontare un paradosso. Quindi questa è una questione fondamentale, insomma, che basta per può aiutare a capire molto. Poi lui gli fa raccontare questo episodio della broadcast della televisione nazionale inglese, della BBC. Parla di un episodio del 2005 dove il direttore di questa della BBC si è seduto in un incontro che ha avuto con Ariel Sharon prima che si dicevano che, insomma, non so se c'è avuto, se è morto, ancora sta posato da qualche parte, comunque quando ancora poteva proferire parola, diciamo, ha avuto un incontro con Ariel Sharon, e quando c'è stato Cast Lead, l'operazione Piombo Fuso, la BBC, che solitamente, per esempio, è solita costruire campagne di raccolta fondi per situazioni dove ci sono emergenze umanitarie o crisi molto forti, ha deciso di non, cioè solo in quel caso, appunto, mentre lo fa per tutte le questioni che ci sono in giro per il mondo, ha deciso in quel caso di non porre questa raccolta fondi, motivandola con non voler alimentare. What was the reason behind per mantenere una posizione imparziale in una soluzione di conflitto? Così facendo, appunto, lui dice, in realtà hanno preso una posizione ben chiara rispetto a quello che era quel conflitto, quindi schierandosi con chi bombardava la popolazione civile, con il piombo fuso e con, appunto, armi che hanno provocato migliaia di morti e malattie che ancora andremo a vedere per chissà quale. Ah, ok, allo stesso modo è successo anche a loro quando c'è stato un servizio sulla BBC sul testo della loro canzone Free Palestine, che ricordiamo potrete ascoltare domani in concerto live al Forte Prenestino. Appunto, quando hanno mandato in onda cioè anche il pezzo sulla loro canzone, il pezzo che poi ritorna al ritornello nella canzone che è Free Palestine, è stato assolutamente sfumato in maniera eccellente, insomma, dalla televisione nazionale. And this is why when we hear this talk from Europe and the United States about democracy in the Middle East, it means nothing. It means absolutely nothing, because the biggest dictator in the Middle East, the most hated dictatorship in the Middle East, has a name, and its name is Israel. Its name is Israel. And they act as if the Iraqi people voted to be occupied and invaded. They act as if Palestinians voted for the creation of Israel in 1948. They act as if you give every single person inside the Middle East, from say Turkey to Afghanistan, a vote on if the state of Israel should exist. What do you think the result of that democratic vote would be? Even if you included all Jewish people in the world, gave all of those people a vote and said, should the state of Israel exist? What do you think? Would it exist? It wouldn't exist. So this is, and the United States have the nerve to talk to us about democracy as if people of the quote-unquote third world don't remember Lumumba, don't remember Allende, don't remember Mossadegh. We don't know what they're trying to do to Chavez. What about democracy in Palestine when they elected Hamas? Whatever you think of a political party, they were democratically elected. Did the United States support that democracy? Did they support that democracy? What do they say about the democracy in Bolivia when you have Morales? What do they say about democracy in Ecuador when you have Carrera? They even had a problem with democracy in Australia when you had Gough Whitlam. they know that true quote unquote democracy, where the government and its actions reflect the will of the people, does not equal Israel's expansion. It does not equal over 1,000 US military bases around the world. If you had governments that reflect the will of the people, there wouldn't be one US military base in the Middle East, and Israel wouldn't be there. The people would have their right of return. And this is not, we should never be bullied. You talk to us about democracy. This is democracy. This is what democracy would be. So they have an interest in stifling these movements, because what people are showing ultimately, they don't even want an Israeli embassy in Egypt. You think they have democracy in Egypt? You think they'll have a pro-Israeli government? You think they'll even necessarily have a pro-American government? The only reason why they'll be able to do that is because the military is so controlled by the United States, as it has been for years. You would not have pro-American governments or pro-Israeli governments in this region, and they know it, and this is why we are seeing the shenanigans. That's just such an English word. The movements to try and hijack what is taking place, because people are realizing that ultimately they are more powerful than their governments. People are more powerful than their governments, and they have more control and more potential in their destiny than at any other point in history before. So this is what US interests are about now, in my opinion. Vabbè, andava bene così, non serve la traduzione, raga, ve lo dico. Allora, è un po' divagato, nel senso, penso mi perderò qualche pezzetto. Le questioni fondamentali. L'altra balla, appunto, che insomma, si sente di dover contestare giustamente, è la questione della democrazia nel Medio Oriente. Quindi dici, un'altra balla che ci raccontano è questa storia della democrazia nel Medio Oriente, che è una cosa che non vuol dire niente. Quindi lui chiedeva, giusto in maniera anche provocatoria, qual è la più grossa dittatura che ci sta in Medio Oriente? Israele, senza ombra di dubbio. E quale sarebbe il risultato se ci fosse un'elezione democratica? Rispetto a quelli che sono i termini della democrazia, per come ce li raccontano, appunto, dove se si chiede, qualcuno ha mai chiesto, è stato chiesto alla popolazione palestinese se ha votato che ci fosse uno Stato di Israele, è stato chiesto alle popolazioni che abbiano in quel pezzo di mondo se sono d'accordo con l'esistenza di uno Stato israeliano, per quello che vediamo, è stata fatta una votazione dove che possa coinvolgere anche tutte le persone di religione ebraica del mondo e capire se veramente, per esempio, anche se tutte le persone di religione ebraica vorrebbero uno Stato di Israele come quello che vediamo. No, sicuramente non è stato fatto. Se questo fosse, appunto, forse il mondo apparrebbe in modo diverso. Quello che si sta capendo, dice appunto, è che comunque la democrazia è quello che ci vogliono far quello che ci vogliono far vedere. Ha fatto molti esempi, insomma, internazionali, parlando dei problemi, situazioni in America Latina, dalla Bolivia al Venezuela e anche altri paesi in Medio Oriente, dicendo che comunque la democrazia è dove il potere ha cercato di instaurarsi attraverso lo strapotere anche economico degli Stati Uniti, attraverso appunto le relazioni con gli stati che si trovano anche in Medio Oriente, perché adesso insomma si parla molto di quello. Quindi è stato chiesto, dice, nelle persone non vogliono neanche le ambasciate israeliane nel proprio paese, chiediamogli se vogliono lo Stato israeliano. E la popolazione egiziana, abbiamo visto, ha rifiutato dopo mesi e mesi di proteste davanti all'ambasciata israeliana, dove sono stati anche repressi duramente con spari, uccisioni e da parte dello stesso esercito egiziano, questo esercito insomma post-rivoluzionario, se così si può chiamare, chiaramente no, era retorico, insomma, e questa gente dopo mesi e mesi di proteste ha deciso, lo so, scusa, era per se non nessuno fa domande faccio conversazione io. E le persone appunto lì hanno abbattuto anche in maniera visivamente molto forte questo muro, che erano, cioè, che io non so se l'avete, per chi ha avuto modo di vedere, penso quasi tutti erano, non mi do la risposta, ho fatto solo la domanda, era un vero pezzo di muro Israele, era un pezzo di Israele portato al Cairo, perché era un vero muro dell'apartheid portato davanti a quell'edificio. E diciamo che se all'interno della West Bank e in tutti i territori occupati con l'uso delle forze militari e questo muro continua ad espandersi, almeno diciamo in Egitto questo è stato impossibile. Quindi lui appunto dice, rilegandosi un po' al sentimento insomma di ribellione e cambiamento che si è visto in molti paesi, che le persone stanno realizzando di essere più forti dei loro governi, che il potenziale di ripresa di di parola, insomma, rispetto alla costruzione del proprio destino e della propria storia di vita, è una cosa che si sta rivelando in maniera più forte, e quindi in questo modo, insomma, si rilegava, appunto, cercava di smontare questa idea di democrazia che cerca di importare. Non ho fatto la traduzione letterale, lo so, scusate, però insomma lui è più troppo lungo. Finito. Ok, allora ci diceva adesso, se qualcuno è intanto, veramente facciamo pure domande più specifiche. Se voglio parlare del progetto musicale, adesso ce ne parla Shadia, però se vogliamo chiedere anche a lui altre cose, insomma, pure opinioni o scambiare un punto di vista, anche di non sono d'accordo, non mi piace quello che hai detto. Vai Mamun. You say more like saying something. It's one of the best in your film room. Salve a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare il nostro amico qua, perché personalmente da tanto tempo fa non ho visto, diciamo, una cantante, un artista così ben educato. Tanto tempo fa, da noi tutti quanti fanno schifo. Quindi è molto importante, sì, purtroppo questa è la verità. Insomma, noi come giovani palestinesi, come una generazione nuova, se è nata, diciamo, dopo il catastrofe, dopo la Nakba, io personalmente, una persona, non ho mai nato nella Palestina, non ho mai visto uno stato in Palestina, non conosco nulla sulla Palestina. Però io ho conosciuto la Palestina tramite canzoni di alcuni band palestinesi, tipo l'Ashiqin, tipo Al-Juzur, tipo Baladna e tanti altri. Io personalmente ho conosciuto la Palestina e cresciuto con la Palestina tramite canzoni. E quindi questo tipo d'arte, cantando, una cosa veramente molto potente, molto utile, diciamo, nella causa palestinese. Quindi ringrazio questa gente di nuovo, è veramente una piacere averle qua e conoscerle e sentirli. Per riguardo quel discorso che è successo per la Palestina e quel riconoscimento dello Stato, io vorrei soltanto condividere alcune cose con voi. Noi come giovani, come una generazione nuova, siamo completamente contro quella cosa merdiosa, scusatemi per il termine, del riconoscimento dello Stato palestinese. Perché automaticamente vuol dire che qualsiasi persona palestinese, se nato fuori la Palestina, diciamo un profugo palestinese, non c'ha o non avrà mai il suo diritto di chiedere di tornare un giorno alla Palestina. Perché? Perché abbiamo un bel piccolo Stato, è stato costruito sul 22% della Palestina storica. E quel 22, io non, la mia città non è compresa dentro quel 22, che vuol dire di nuovo, io non posso dire allora vorrei tornare a Bisan, i miei sono venuti di là, mi dicono semplicemente no, ecco il tuo stato, puoi andare al tuo stato. Ma anche quelli profughi palestinesi che vivono nei campi di profughi dentro la Palestina, in Cisgiordania, neanche loro hanno il diritto di chiedere un giorno di tornare nella loro, diciamo, città di origine. Perciò vale la pena dire questa cosa e chiarirla. Per noi è stato un guaio strategico, politico, in tutti i sensi. Ci hanno venduto proprio. Noi vediamo la situazione attuale così. Perciò, si può cominciare semplicemente dell'ABC della causa palestinese. Cioè, la situazione attuale in Palestina, diciamo, occupazione. E questa è la situazione attuale in Palestina. Occupazione delle 48. E quando c'è l'occupazione, ci vuole semplicemente la liberazione, e la liberazione ci vuole una rivelazione, e la rivelazione ci vuole anche di nuovo, diciamo, un piano strategico che dura per tanto tempo, perché la Palestina non è stata perduta in un giorno, neanche in un anno, è stata perduta, diciamo, tanto tanto tempo fa, prima delle 48. Perciò, secondo noi, questi piani strategici devono essere, diciamo, discussi fra tutti i palestinesi, gli amici dei palestinesi, in tutti i livelli e in tutti i sensi. Parlavano i nostri amici, i nostri compagni da poco sul boicottaggio, adesso ha parlato il nostro amico sulle canzoni. ci sono alcuni palestinesi che parlano su tipi diversi di lotta per liberarsi la Palestina, e io dico la Palestina, non dico la Cisgiordania, non dico la Gaza, non dico la Gerusalemme, perché tutti quanti sono la Palestina. E io sono contento quando vedo il movimento di boicottaggio, però non basta nella maniera in cui lavora adesso, perché se io dico, io faccio il boicottaggio soltanto per i prodotti di, diciamo, i coloni israeliani, io praticamente sto dando una legittimità al resto dell'occupazione. Ma qualcuno può dirmi, ad esempio, quelle prodotte che verranno fatte in Tel Aviv sono legittime, non sono sotto l'occupazione, ma là pure è un'occupazione. A Haifa, ma là pure è occupazione. In tutte le parti sono occupazione. E quindi se io boicottaggio soltanto quelli che stanno nel colonia, io sto dando dall'altro lato la legittimità al resto dell'occupazione. Quindi una divisione a me personalmente non va bene, ma anche non va bene a tanti altri palestinesi. E questa è la situazione vera, e questo è il quadro generale. E si capisce così. E poi un'altra cosa, qua oggi siamo all'università e io sono molto contento quando c'è un dibattito del genere dentro un'università, perché da qua si comincia tutto. Sì, Roma 3 in particolare, diciamo come università italiana, c'ha rapporti buonissimi con gli israeliani, con le università dell'Israele, c'hanno buon tanti rapporti, tante cose fanno insieme. E da qua io posso dire ad alcuni amici, ad alcuni, poi non lo so, le gente che sono studenti alla Roma 3, state attenti a queste cose, perché questi progetti veramente danneggiano tanti diritti di tanti popoli, di tante persone che stanno dappertutto, in diaspora, vivono, aspettavano una generazione italiana, ma anche europea, ma non lo so da dove viene. Qualsiasi generazione attenta e sveglia per quello che sta succedendo. Oggi stiamo vivendo, appunto, ha parlato sul BBC, il ruolo della media, un ruolo molto pericoloso, molto delicato, perché noi tutti i giorni siamo davanti ai giornali, leggiamo i giornali nella metropolitana, guardiamo il TV alla serata, sentiamo delle schifezze senza controllarla, senza pensarla, e le accettiamo così, semplicemente, in modo molto tranquillo. E tutti quanti ricordiamoci ancora bene ieri quando è successo, diciamo, quella guerra israeliana contro Gaza nel 2008, nel dicembre. E ha rifiutato, appunto. Ma perché ha rifiutato? E io personalmente non sapevo questa storia che ha già raccontato lui, che c'era questo incontro fra quello capo del BBC e fra Ariel Sharon nel 2005, appunto. Ma anche qua dentro l'Italia ci sono tantissimi giornali che lavorano al favore dell'Israele. E quindi dobbiamo essere un po' attenti, diciamo, allarghiamo le nostre dimensioni del nostro cervello, andiamo più larghe, facciamo qualsiasi cosa. E vi ringrazio, non vorrei dire altre cose. Scusatemi se ho detto qualcosa non è a posto e non mi ha aiutato molto la lingua. Vi ringrazio. Io volevo solo rispondere una cosa a Mamun velocemente sul boicottaggio, semplicemente per dire che questa discussione che tu poni su rispetto ai prodotti delle colonie o israeliani, tu hai ragione, cioè nel senso fondamentalmente hai ragione, perché la distinzione non andrebbe fatta. Semplicemente a volte lo strumento, e questa è una discussione che si è stata fatta strategicamente, in alcune discussioni si è detto che, appunto, parlare, è vero che l'occupazione parla di tutto, e parlare solo delle colonie è come accettare tutto il resto, ma per chi non sa neanche che la Palestina esiste, parlare degli insediamenti illegali, che sono la cosa che è molto più facilmente comprendibile, è uno strumento in più per poter parlare di Palestina a chi non ne sa molto. Quindi a volte si parla del prodotto delle colonie, però se poi ha la possibilità di stabilire un contatto, c'è l'attenzione di qualcuno, gli racconti che il problema non è il prodotto delle colonie. Solo per dirti che, cioè, questo ragionamento siamo sicuramente, cioè, noi ne abbiamo parlato molto e siamo pure d'accordo rispetto alla lettura che dai tu, però a volte per costruire una campagna può funzionare strategicamente parlare di un prodotto in certi termini. Con la COP la questione, non è per assurdo, non era che ci sono i prodotti delle colonie, ma che non c'è la tracciabilità. cioè che non si sapeva da dove venivano quei prodotti. Questa cosa serve per attaccare, per in qualche modo mettere la COP con le spalle al muro, nel senso che la COP è un'azienda che parla dell'etica negli anni della scelta dei propri prodotti di qualità, e quindi contestare il fatto che non si capisce da dove vengono i prodotti è come dire, intanto, anche se sei d'accordo per Israele, anche se sei d'accordo per due popoli, due stati, quello che ti pare, comunque questi prodotti che la COP importa non vanno bene, perché non si capisce niente da dove vengono, non si sa da dove vengono, da dove arrivano, se vengono dagli insediamenti o da un'altra parte. Quindi, a prescindere da quella che è la nostra personale posizione, una questione del genere ci aiuta a parlare con tutti, sia chi ha una posizione per uno Stato unico, laico, sia per chi crede in una soluzione ormai che sembra poco credibile di due popoli, due Stati, anche se è quella che vediamo avanzare di più. Quindi è solo per dire che a volte alcune scelte di questo tipo sono molto più strategiche. O tattiche, ma non strategiche, insomma, non vogliono risolvere il problema e parlare in maniera esaustiva della Palestina, insomma. No, dicevo che la coalizione Stop Agrexco abbiamo scritto chiaro e tondo nel nostro statuto che aderiamo a tutti gli aspetti della chiamata BDS dai palestinesi, però abbiamo scelto una compagnia che, come ha detto Marco, ci dà la possibilità di comunicare con la gente, quindi noi aderiamo alla BDS, però abbiamo scelto un target specifico per poter comunicare con la gente. E ricordo quello che dice sempre Omar Barghouti, uno del Comitato Nazionale Palestinese per il BDS: se tu pensi che devi soltanto boicottare quel pezzo di pane, io ti chiedo di boicottare quel pezzo di pane con tutte le tue sforze. Quindi di non bloccarsi pensando devo boicottare questo o quello, ma di lavorare sul boicottaggio. Ok, io penso che dobbiamo andare via, quindi diamo... Sì, non dobbiamo andare via, possiamo rimanere. E lui semplicemente mia madre mi dice di avvicinare lontano il microfono. Semplicemente penso passiamo alla parte più legata al loro progetto, a quello che loro hanno fatto. Quindi credo che Shadia, you will. Un'ora e mezza di documentario, andiamo. Ma dopo, alla fine delle 4:30 non c'è nessuno. Allora, scusate un pochino la confusione, però ci sono... Allora, comunque, dicevano invece, scusate la correzione, mi dicono che facciamo intervenire Bilal, che ci racconta qualcosa, appunto, la propria esperienza, insomma, viene da stare arrivato stamattina dai campi profughi della West Bank, quindi ci può dire quello che succede là in questi giorni. Successivamente, ora capiamo se guardiamo prima il documentario e ce ne parlano dopo, il problema è che il documentario dura un pochino, quindi ora decidiamo mentre Bilal magari parla che capiamo insieme come fare quest'altra cosa. Bilal, parla libero. Chi è che fa traduzione dall'arabo all'italiano? Non so se l'ha offerta volontaria. Radio transizione di fase. 10 minuti Bilal, non tre quarti d'ora. No, sì, parla poco, parla di AI, da occupazione Ghilo. أول شيء مساء الخير للجميع وبتشرف إني اليوم أكون موجود معاك ومع المجموعة الموجودين ومبسوط كثير إني شفت فلسطينيين اليوم موجودين هان علي. وفي شغلة واحدة بس رسالة مني كفلسطيني جاي من فلسطين للفلسطينيين الموجودين هان، بتمنى زي ما قال الأخ فوق إن حابين نسوي مجموعة فلسطينية تشوف أمور الفلسطينيين، بتمنى منتو أنتو كفلسطينيين موجودين هان ما تتعاملوا أو ما تروحوا للجهات الحكومية اللي هي الفلسطينية زي السفارة الفلسطينية، لأن في 2003 ما قبل 2003 نمر حماد هو أحد اللي خرب الجالية الفلسطينية والفلسطينيين الموجودين كانوا في داخل إيطاليا، وبتمنى إن منتو ما تعاودوا تعيدوا الكرة واشتغلوا لحالكم بدون ما تتبعوا الحكومة. Per prima cosa, buonasera a tutti quanti, mi fa molto piacere trovarmi qua un'altra volta in Italia. La cosa che mi fa molto piacere è che sono molto contento di trovarmi qua, soprattutto di vedere la generazione di palestinesi, e il mio messaggio in questo momento va direttamente ai ragazzi palestinesi. Un mio consiglio è di poter fare qualcosa, che le generazioni di palestinesi si coalizzano fra di loro per fare in qualcosa. È il mio consiglio di non coalizzarsi, di non chiedere un appoggio, soprattutto all'ambasciata palestinese qua in Italia e in generale alle istituzioni, tenendo conto che nel 2003 Nemer Hamad è stato Nemer Hamad, che è questo qua che fa parte dell'ambasciata palestinese, è stato lui stesso a rovinare la stessa generazione di palestinesi. Quindi il messaggio è solamente di distaccarsi dalle istituzioni e di lavorare e di portare avanti il proprio progetto, il proprio credo, senza le istituzioni. طبعا ندخل في الموضوع على طول وراح نبلش في مستوطنة جيلو اللي هي مستوطنة جيلو قريبة من مدينة بيت لحم ومدينة القدس وسط مدينة القدس ومدينة بيت لحم. طبعا مستوطنة جيلو هي كانت تسمى مستوطنة جيلو لكن اليوم الإسرائيليين بيعدوها أحد مدن عاصمة القدس العظمى اللي إلهم. واليوم عم بتحدثوا في مستوطنة جيل أو بتحدث الحكومة الإسرائيلية عن بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في داخل مستوطنة جيلو. Allora, inizio il mio discorso parlando delle colonie di Gilo, che si trova vicino a Betlemme. Adesso per loro comunque è diventato un punto di riferimento, è come se fosse un po' una delle capitali di Israele. E all'interno di questi coloni ci sta più di 2000 abitanti e vogliono fare una colonia, cioè già nella stessa colonia di Gilo vorrebbero fare un altro all'interno, quindi allargarsi maggiormente. طبعا بناء هاي ال 1100 وحدة استيطانية هي على أراضي فلسطينيين والأراضي هاي كانت تابعة في الماضي لمدينة بيت جالة والأهالي بيت جالة. Comunque, come si sa, le colonie vengono fatte sul territorio palestinese. Le colonie di Gilo, comunque, sono sul territorio di Beit Jala, che comunque è un territorio che appartiene alla Palestina. طبعا مستوطنة جيلو هي تقسم حاليا لثلاث أقسام اللي هي جيلو A, جيلو B, جيلو C. واليوم مع بناء 1100 وحدة الاستيطانية رح يكون في حرف جديد أو اسم جديد تابع لجيلو. طبعا في راس بيت جالة أو في أواخر آخر بيت جالة في برضو مستوطنة تسمى بهار جيلو أو يعني هار جيلو تترجم بالعربي اللي هي جبل جيلو. Le colonie di Gilo, che comunque abbiamo detto si vogliono allargare di più, si dividono in tre, in 3 altre colonie, comunque numerate con A, B, C, e adesso può darsi che ne sbucherà un'altra dandogli un altro alfabeto. E ce ne sta un'altra che comunque si chiama Bahar Gilo e che vuol dire montagna di Gilo. طبعا هاي مستوطنة جيلو عندنا اللي هو مستوطنة هار حما واللي تسمى جبل أبو غنيم. طبعا هاي المستوطنة الثانية اللي هي هار حما أو جبل أبو غنيم اليوم عم بكربوا في استيطانهم لقرية صور باهر وإم طوبة، وفي حديث على إنه يقوموا بطرد أهالي قرية صور باهر حتى يقوموا بناء وحدات جديدة بدل القرية اللي موجودة غادي. Che in pratica si stanno allargando maggiormente di più, e questo loro allargamento porterà, si pensa che vogliono arrivare addirittura in un villaggio che si chiama Sur Bahar, e che è molto probabile che comunque cacceranno le persone dalle loro proprie abitazioni. راح ننتقل هالحين لحديثنا عن المخيمات والأحداث اللي صارت في الأخير وما استحقاق أيلول وكل ما ذكر من قبل السلطة الفلسطينية. اليوم في حديث على استحقاق أيلول وإن راح نسوي دولة فلسطينية وراح نقيم الدولة الفلسطينية. إحنا كفلسطينيين أول شيء الشعب ما اتخذ قرار، هي السلطة اللي اتخذت قرار وهي قامت بكل أمورها. إحنا كشعب في نسبة كبيرة ترفض إقامة الدولة على 20% مقابل 80% للدولة الإسرائيلية، ولا يحق أني أعترف بدولة إسرائيلية هي في الأساس محتلة. Adesso parlerò di ciò che è successo in questi ultimi tempi, no, con quest'estate, no, che è successo in Palestina, no, Hamas e Fatah. Comunque si è parlato, no, dei campi profughi e che comunque si è parlato comunque del diritto, dell'esistenza o meno della Palestina. Il popolo dice: noi come palestinesi non c'è stato chiesto nulla, non abbiamo avuto modo di esprimerci al riguardo. Il tutto viene fatto dall'alto, dalle istituzioni e non dal basso, dal popolo. E io personalmente mi rifiuto, cioè in confronto alla popolazione, il 20% dei palestinesi in confronto all'80%. Scusate, dice in base a cosa mi viene chiesto se lo Stato di Israele può esistere o meno, tenendo conto che io ho il 20% mentre lui ha l'80%. Io più del 20% comunque ho ragione, e comunque è una domanda insensata che mi viene fatta, cioè se può esistere o meno lo Stato di Israele, tenendo conto che la Palestina è dei palestinesi. طيب أرد. Salve. Sono palestinese, solo volevo chiederlo se lui contro questo passo che ha fatto Abu Mazen davanti a tutto il mondo. Secondo me che è questo un passo molto positivo per i palestinesi, anche se diciamo che ok, io non mai conosco lo Stato israeliano, ma passo per una cosa per il meglio, secondo me. Almeno un passo, no? Tanto da. طيب راح اجاوبها على السؤال اللي سالته هي وبتقول ان يعني انا مش ضد اني اقيم دوله فلسطينيه. انا مع اني اقيم دوله فلسطينيه بس على جميع حقوقي كفلسطيني، على جميع ارضي كفلسطيني، مش على جزء لا يتجزا، يعني جزء بسيط، جزء يعني اذا بدي اكيسه بالمقياس بكيسه هالكد. عندي انا في بيت لحم ثلاث مخيمات، 12-13 ألف بني ادم في مخيم الدهيشه، 6000 بني ادم في مخيم عايده، 1400 بني ادم في مخيم العزه، 100 ألف بني ادم في مخيم ريحه. هذول الاعداد اللي احنا قاعدين بنحكي عنهم معظمهم من 48، لما انا بطالب على 67، 48 وين راحت؟ طب انا بدي اقيم الدوله الفلسطينيه، هل انا باني حالي؟ هل انا عملت استراتيجيه كامله عند اعتراف الامم المتحده او اسرائيل باقامه الدوله الفلسطينيه؟ هل انا بنيت اني راح اعطي الشعب الفلسطيني ميته وكهربته؟ واحنا كلنا بنعرف كفلسطينيين واللي عايشين في فلسطين وقتيش بدها اسرائيل بتقطع المي وقتيش بدها بتفتح المي. فهذا الاساس انا ضد اني اقيم الدوله الفلسطينيه بالشكل اللي هو طلبه. اول شيء هو اذا انت سمعت خطابه كان هو خطابه ترجي للشعب الاسرائيلي او للحكومه الاسرائيليه. اذا انا بدي دولتي بنتزع دولتي نزع، ما بترجى لا الامم المتحده ولا اسرائيل انها تعطيني دولتي ولا انها تعطيني ارضي. حتى نعطيك معلومه انت والباقيه، لما صار الاحتلال الاسرائيلي الاسرائيليين قاموا باستئجار المسكوبيه اللي هو سجن المسكوبيه، يعد من اكبر السجون في التحقيق في مدينه القدس، قاموا باستئجاره من الحكومه الروسيه لانه كان تابع للحكومه الروسيه. دايركت بعد استئجار هذا المبنى الأمم المتحدة قامت باستئجار الأراضي للمخيمات، استأجروا الإسرائيليين من روسيا ل99 سنة، واليوم الأنيروا الوكالة استأجرت الأراضي لبناء المخيمات ل99 سنة. يعني ما نعول وما نستنى كثير من الأمم المتحدة أنها تعطينا، لأن متفقين مع الحكومة الإسرائيلية. بابا كفيتو تي العربو. Allora, comunque lei la sua domanda era un po', cioè gli ha chiesto, ma comunque sei in qualche modo sei contrario alla posizione di Abu Mazen e se il suo progetto è comunque di riconoscere lo Stato della Palestina. Lui risponde, io sono contrario, dice, in che maniera mi puoi chiedere se può esistere la Palestina, lo Stato palestinese, se non c'è stata una strategia fatta di fondo, chiesta comunque dal popolo, dal basso. Dice lo stesso Abu Mazen, dice piuttosto io non vado a chiedere ad Abu Mazen di riconoscere lo Stato della Palestina, ma più che altro io la mia terra me la strappo, la mia dignità, la mia come si dice, la mia terra me lotto e me la prendo e non attraverso e non mi aspetto un tramite. Dice lo stesso Abu Mazen in alcuni suoi discorsi sembra quasi che chieda, che comunque che faccia quasi il lecchino a Israele e all'America. Quindi il discorso di Abu Mazen a me non, cioè comunque poi ha fatto tantissimi esempi su quanti campi profughi si trovano a Betlemme, facendo esempio che ci sono campi profughi che di più di 1000 persone sono chiuse là dentro. E poi vabbè, poi ha divagato un po' e non ho preso più appunti. فيعني احنا بنتاسف جدا ان فيش عندنا وقت نكمل كل الامور، لكن في نقطه مهمه. اول شيء انا شفت ان في اسرائيليين هان وصار الحديث على ان في متضامنين اسرائيليين مع الشعب الفلسطيني ضد الجدار وضد. انا مع اي متضامن سواء كان اوروبي او اسرائيلي، لكن في عندي نقطه واحده بوجهها للاسرائيليين. اذا انت متضامن اسرائيلي وبتقول انا مع الفلسطيني وبدي أساعد الفلسطيني، ليش أنت قاعد في أرضي وفي داري؟ فإذا أنت متضامن إسرائيلي وبدك مصلحة الشعب الفلسطيني وبدكش ينقام الجدار، اترك تل أبيب اللي هي تل الربيع في الماضي واليوم تسمى تل أبيب، اتركها وتعال عيش عندي في المخيم وعاني اللي أنا بعانيه كابن مخيم، واترك كل أمورك اللي أنت بتأخذها من قبل الحكومة وعيش زيي. حنيتها أنا بشعر بأنك أنت متضامن وبدك مصلحة الشعب الفلسطيني، بس ما دام أنك بتيجي الساعة 12 بعد صلاة الظهر تيجي على المظاهرة، بتحضر المظاهرة والساعة 2 بتروح على دارك، كل واحد بعبط صاحبته وبينام هو إياها، واللي يصير يصير في الشعب الفلسطيني مش مهمة، أنا حضرتها. وبيجي بيقولوا لك ما احنا متضامنين إسرائيليين مع الشعب الفلسطيني. طب أنا شو استفدت؟ ما أنت برضو نفس الاحتلال بس بشكل غير مباشر. Allora, dice comunque prima di tutto, dice si dispiace che comunque non c'è tanto tempo per portare avanti la discussione, però comunque io so che comunque ci sono dei ragazzi israeliani, ci sono degli israeliani e degli europei, dei compagni che comunque si definiscono compagni, quindi che lottano per la causa palestinese, però dal momento in cui ci stanno degli israeliani compagni che comunque riconoscono lo Stato della Palestina, allora se tu israeliano, no, compagno, che ti definisce compagno e lotte per la causa palestinese, prima di tutto se vuoi veramente essere un vero compagno, perché comunque tu continui a vivere in Israele, continui a consumare dallo Stato di Israele, allora pia la tua roba, trasferisciti e vieni da me in Palestina e soffri così come soffro io e non alimentare la propria economia. A quel punto veramente posso sentire che tu sei veramente un compagno e mi appoggi il tutto per tutto. Se sei un compagno che viene a mezzo giorno a fare la manifestazione, magari la metà della manifestazione appena finisce te ne vai e dormi tranquillo e mangi tranquillo, e poi quel che succede, il continuo della manifestazione, le cariche non te le subisci, per me questo è un po' privo di senso. Perché comunque tu da compagno israeliano ti trovi sul mio territorio, stai nel mio territorio palestinese e non sta nel campo profughi, e dice che comunque tu ti trovi a Tel Aviv, che un tempo quel luogo si chiamava Tel Rabia, collina la traduzione, quindi magari a questo punto qua sarebbe figo anche discuterne, ampliarlo, no, non a questo punto, però vabbè, personalmente ecco. بشكر الجميع وفرصة سعيدة في المرات الجاي. Saluti a tutti e bocca al lupo a tutti. Allora, si sta facendo una certa, come appunto diciamo, è difficile.